Benvenute, benvenute tutti quanti, buonasera. Allora, come l'anno scolastico, anche la biblioteca provinciale a metà settembre riprende con gli incontri serali, con gli appuntamenti prevalentemente del lunedì sera alle ore 18. La novità è che quest'anno avremo un programma anche intenso, si snoderà, si articolerà in qualche serata del giovedì. E concluderemo la prima parte in dicembre, il 17 dicembre, con la festa Claudia Augusta, che è la solita festa che noi facciamo per premiare coloro che hanno consegnato la tesi di laurea fatta negli ultimi 2 anni con temi inerenti al locale. Sono particolarmente contenta questa sera che abbiamo con noi Sergio Pesce, un giovane autore, ma non meno qualificato, anzi, si è laureato alla Cas Foscari, collabora con trasmissioni televisive, con associazioni, con enti culturali. La sua specializzazione è quella di mediatore informatico, ma appunto ha lavorato e studia la storia dell'arte e si è imbattuto sulla questione della prospettiva e sulla storia dell'arte del XV secolo e quindi anche il rapporto con la prospettiva da parte di Michael Parker. E siamo felici quindi di iniziare con lui questa sera. Abbiamo preparato una piccola bibliografia, come sempre, un percorso tematico. E la novità della biblioteca è che quest'anno stiamo un po' anche ristrutturando i nostri libri, i nostri scaffali. Vorremmo fare più spazio a quella che è la saggistica e quindi anche all'informazione non solo legata al territorio, che è una tradizione che proseguiremo, ma anche a libri e materiali di studio e di ricerca che possono essere utili agli studenti, ai professionisti e alle persone che hanno piacere di approfondire alcuni temi a loro particolarmente cari, che risultano interessanti in tutte le discipline. Quindi, insomma, vi invitiamo a sfruttarci in tutti i modi, a venire a stravolgere tutti gli scaffali possibili e immaginabili, ricordandovi che questo è solo un quarto di quello che abbiamo, quindi tutto il resto è nella Schatzkammer qui vicino e che noi prontamente vi mettiamo a disposizione. Come di consueto, sulla sedia lasciamo anche un modulo di iscrizione. Ricordo che è una iscrizione gratuita, per cui basta compilare il modulo e siete poi in contatto con la biblioteca, informati tempestivamente di quello che avviene, di quello che viene proposto, e vi facciamo accedere quindi a tutti i servizi gratuitamente. Grazie di aver aderito e accolto il nostro invito, in bocca al lupo anche per la sua attività e buona serata e buon ascolto a tutti voi. Grazie a tutti. Innanzitutto, magari forse non serve che uso il microfono, ma al limite mi dite e io lo accendo bene. Volevo comunque ringraziare la Biblioteca Claudia Augusta perché mi ha dato la possibilità di essere qui questa sera con voi, tutti voi che avete deciso di dedicarmi quest'ora, ora e mezzo ad ascoltarmi. E come spesso faccio prima delle mie conferenze, perché Parker è stata la mia tesi di laurea e alla fine della mia tesi di laurea l'ho portato in giro con queste ricostruzioni spaziali che ho fatto, hanno interessato alcuni giornali, alcuni programmi televisivi, come diceva prima. E in effetti inizialmente ho detto: ma se faccio un video che in qualche maniera riassume quanto sto dicendo, può essere interessante. Non prendete paura, è un video di 1 minuto e 20 che riassume però un po' quello che poi io dirò nella seconda parte. Quindi ora ve lo Io con questo video qui, in sostanza, avrete visto alcuni particolari che poi io spiego bene nel libro e vi spiegherò anche questa sera. Sostanzialmente per questa presentazione, vi dico subito, il libro è diviso essenzialmente in 6 capitoli, il primo dei quali riguarda il possibile rapporto tra Michel Pachter e la città di Padova, perché nonostante sia un artista molto conosciuto soprattutto qui nel Tirolo meridionale, un po' meno, ahimè, da dove provengo io, cioè da Venezia, non si può non riscontrare un certo parallelismo estetico tra le opere appunto di Michel Pachter e alcune opere presenti a Padova nella metà del 400. Certo. Va bene l'audio? Sì. Va bene? Okay. Niente. Alcune opere, in particolar modo, poi le vedremo bene, tra quelle di Niccolò Pizzolo, Andrea Mantegna, tutti nomi molto conosciuti, Francesco Squarcione, Giovanni Bellini. Quindi per me era fondamentale cercare di capire se effettivamente c'era un rapporto o c'è stato un rapporto. L'unico modo che ha la critica d'arte per capire se c'è effettivamente un rapporto storico è quello di andare a vedere gli archivi, quindi per quanto mi riguardava l'archivio storico di Padova e l'archivio di Stato di Venezia. La biografia, abbiamo già detto, è un artista abbastanza particolare Pachter, perché noi abbiamo pochi dati in merito a questo artista. I pochi dati in merito sono relativi a contratti, a fatture, e in molti casi non abbiamo neanche tutti questi grandi documenti. In realtà la maggior parte, se vi dico che la maggior parte dei documenti relativi a Michel Pachter sono dei documenti degli anni 1470, cui lui vende e compra Masi, era uno degli uomini più ricchi di Brunico. E purtroppo non abbiamo dei documenti così attenti, perché chiaramente anche nel 1600 l'archivio di Brunico si incendia e lì poi la volontà anche della storia è quella di perdersi. Cosa succede però? Nel 1800 Pachter viene studiato inizialmente nel solo territorio tedesco, quindi intendo critici d'arte come Manowski, Förster, Semper, e in sostanza vedono la possibilità di inserire in questi buchi neri, passatemi il termine insomma, cioè quando non abbiamo un documento, si cerca di inserire quasi un'ipotesi, una teoria. Ecco ad esempio che si lega la teoria di Padova, anche perché a Padova c'erano artisti che conoscevano la prospettiva, ed ecco perché poi il mio titolo, La prospettiva di Michel Pachter. Alcune tesi però le ho cercato di argomentarle. Come si fa? Si prendono tutti i libri di tutte le persone che hanno scritto, storici che hanno scritto su Michel Pachter, si cerca un percorso filologico e si possono alla fine accettare o meno alcune ipotesi e certamente scartare alcune verità, false verità, una tra tutte è quella che Friedrich Pachter o Federico Pachter fosse il fratello di Michel Pachter. C'è un documento che è lì, presente almeno scoperto dal 1968, quindi non stiamo parlando di secoli, eppure adesso, ancora adesso in alcune enciclopedie o nei libri di Mondadori scrivono ancora possibile fratello. Ecco, forse è stato in parte magari un po' sottovalutato questo artista. Il terzo capitolo in realtà è come fosse una chiave di volta. Prepara il lettore a quello che poi io vado a fare, cioè la ricostruzione del dipinto. Cioè una considerazione storico-critica sulla prospettiva è fondamentale per dividere in due ciò che noi oggi consideriamo prospettiva. Per noi oggi che cos'è la prospettiva? Una rappresentazione tridimensionale su piano bidimensionale, però accettiamo ad esempio la prospettiva accidentale che ha ad esempio due fuochi. Voglio andare troppo nel tecnico, però sicuramente se tra di voi c'è un ingegnere, un architetto, saprà meglio di me che esistono dei punti di fuga, dei punti di vista molto diversi rispetto a quelli che a noi in realtà interessano, cioè a tutti coloro interessa la prospettiva in Pachter, perché nel 400 il termine prospettiva indicava un'altra cosa, aveva un unico fuoco, era al centro della composizione e tutte le linee di fuga andavano, sono parole così, ho portato delle immagini in modo tale che poi si riesca a capire abbastanza velocemente. Questo dicevo, una sorta di chiave di volta che permette al lettore di capire poi le composizioni. Questo lo dico un po', anche se sembra un po' Cicero e Prodomo mio, però è la prima volta che viene pubblicato un libro di Pachter in cui compare il 90% dei dipinti ricostruiti. Se voi vedete l'edizione di Rasmo del 69, tenta una ricostruzione di un unico dipinto che è l'altare di Parigi della Chiesa, che per la cronaca è grazie a quell'opera che la critica italiana con il Longhi all'inizio del Novecento inizia ad apprezzare Pachter. oppure il catalogo del 98, dove collabora anche il professor Rosenauer, se non stia ora a Bressanone, anche lui tenta una ricostruzione che però è un'unica, insomma, stiamo parlando di due ricostruzioni nell'arco di 30 anni, anzi quasi di 100 anni, perché alla fine solo con Longhi al mezzo novecento si inizia a parlare di prospettiva di Packer. Quindi in questo caso, diciamo, non si scappa, cioè sono tutte inserite. Infatti mi sono voluti 2 anni, però alla fine sono riuscito a inserirle tutte. Composizioni dal 59 al 70, cioè le composizioni più giovanili di Packer, e quelle dal 77 all'81. Packer, per chi di voi già l'ha studiato, saprà perfettamente che Packer morirà nel 1498 a Salisburgo. Dall'81 al 98 ci sono diversi anni, però le opere che noi oggi consideriamo di Packer in questa fascia, dall'81 al 98, sono in realtà opere che vengono a lui attribuite. Per cui anche un'indagine prospettica, ho preferito fare un'indagine prospettica sulle opere che siamo certi essere sue. Alla fine le attribuzioni, e mi leggo un po' al discorso biografico e perché no anche al possibile rapporto con la città di Padova. Cioè, proprio perché ci sono dei buchi temporali, qualcuno ha tentato, cito il professor oggi politico, Giorgio Ponsanti, che si laurea anche lui con una tesi in Michael Packer negli anni 60, e vede la Maria di Borgogna, un'immagine che poi magari vedremo inserita nel libro, e l'attribuisce a Michael Packer, senza, vi dico, dicendo semplicemente che nel Tirolo meridionale non c'erano grandissimi artisti, per cui se quest'opera è considerata di qualità deve essere certamente un'opera di Michael Packer. La critica d'arte si muove su altri canoni, cioè abbiamo bisogno di documenti, e dove non abbiamo i documenti possiamo parlare di teorie, supposizioni, non di dati di fatto, e questo è un po' lo schema del mio libro. Ora, per il tempo che ho a disposizione, vi parlo un attimino del possibile, per ogni capitolo vi do delle informazioni che poi, quando volete, le potete ritrovare nel libro. Cercavo informazioni su Packer, cioè cercavo informazioni appunto che mettessero il punto una volta su tutte sulla possibilità che Packer fosse stato a Padova, che diventava fondamentale per quello che vedrete dopo. Cosa ho trovato? Un affresco storico. Sia a Padova che a Venezia ho trovato una moltitudine di documenti relativi ad artisti, quindi artisti, soprattutto scultori lignei, e non è un caso perché la cultura tedesca, soprattutto del 3-400 e anche del 500, ha prodotto i migliori scultori lignei, insomma. E non solo, anche i commercianti. Nello specifico a Venezia trovavano spazio i commercianti, non è una novità. Nelle mie parti esiste ancora un palazzo che si dice fondaco dei tedeschi, fondaco è una parola che deriva dal turco, fundus, è un magazzino, e Venezia raccoglieva tutte le comunità, e questi erano fondamentalmente dei commercianti. Quindi a Venezia questi tedeschi erano per lo più commercianti, a Padova si trovavano i pellegrini e gli studiosi. Padova veniva considerata nel 400 una seconda Gerusalemme per la presenza della Basilica di Sant'Antonio, e ancora oggi so, anche tramite i miei parenti di Brunico, che esistono dei veri pellegrinaggi proprio verso la città di Padova. È uscita Padova, è ritornata. E poi gli studiosi perché l'Università della Repubblica Serenissima di Venezia, chiaramente Venezia, potrei citarvi il caso di Petrarca, ma non lo cito, e la Repubblica di Venezia non voleva l'università a Venezia, la voleva in quella che la considerava la campagna, e quindi l'ha inserita a Padova. Grazie a questo Padova oggi vanta una delle più antiche università del mondo, insieme a quelle di Bologna, per quanto riguarda almeno l'Italia. E a Treviso, città strana, no? Perché uno magari tra le prime due capita a Treviso, erano proprietari di locande, e ho trovato anche lì molti documenti in merito a questo. Questo è un po' un affresco. A Venezia, in particolar modo, all'inizio del XV secolo, arriva Giovanni da Judenburg. Judenburg è un paese che sta in Stiria, in Austria, e realizza un crocifisso per la chiesa di San Giorgio, prima dell'intervento del Palladio. È proprio la chiesa di San Giorgio in bacino San Marco. Di fronte a piazza San Marco c'è quest'isola con la chiesa. Ed è una zona, è un panorama straordinario, soprattutto se viene lasciato in mano un crocifisso ad un artista legato alla cultura fiamminga e medievale, e quindi per questo a Venezia e non a Padova, perché Padova già stava accogliendo la cultura umanistica fiorentina, Venezia invece è ancora legata all'arte bizantina, se non altro perché nel 400 ancora i possedimenti lì, no? E c'è un binomio tra questa cultura e la cultura tedesca, no? Quindi immagini, per farle in breve, cioè l'immagine più importante la dipingo più grande. Mm-hmm. Ecco, questo ecco in maniera un po' rude, però è un po' l'arte che a San Giorgio, però, cioè di fronte all'unica piazza di Venezia, che a Venezia c'è solo una piazza, gli altri sono campi, mm-hmm. è Piazza San Marco. Potere politico, quindi insomma, Giovanni da Ulma, che probabilmente è anche Giovanni d'Alemagna, poi se lo volete, se avete domande sono qui apposta, non c'è nessun problema, diviene socio di Antonio Vivarini. Antonio Vivarini è una importantissima famiglia di Murano ed è storica di pittori. Era, diciamo, un derby tra la famiglia Vivarini e quella dei Bellini. Quindi il doge, il patriarca, i veneziani, i facoltosi, i patrizi, decidevano se farsi fare i dipinti o da Vivarini o da Bellini. E questo, cercavo informazioni su Packer, a un certo punto sono arrivato a scoprire che già due artisti provenienti dall'Austria, per i veneziani erano sempre tedeschi, non facevano distinzione. Infatti poi Giovanni diventa Giovanni d'Alemagna, perché non c'era questo interesse, lo sentivano parlare alemanno, era alemanno. Insomma, incontrano persone importanti. A Padova lo ritroviamo insieme a Vivarini perché lavora alla Cappella Ovetari. La Cappella Ovetari è un po' sfortunata, ahimè, perché durante il secondo conflitto mondiale è stata bombardata e quindi purtroppo abbiamo, per fortuna qualcuno ha fatto delle foto precedentemente, tanto che oggi possiamo fare un confronto, però facciamo un confronto sulle foto in bianco e nero in realtà. E lavora alla Cappella Ovetari, che è una cappella privata, una cappella gentilizia dentro alla chiesa degli Eremitani, certamente più conosciuta. Ed ecco qui altri nomi che ho trovato, io ne ho segnati questo e un altro, ma in realtà ne ho trovati circa una quarantina. Erano molto presenti, insomma, i tedeschi in Veneto. Hieronymus d'Alemagna entra in contatto con Donatello, che penso non abbia bisogno di presentazione, insomma, Donatello, e Hieronymus Teutonico, vedete che mettono o d'Alemagna o Teutonico, oppure Ulma, quando sanno da dove proviene, o quando lui riesce a dirglielo in italiano da dove proviene, perché poi c'è anche questo problema qui, che è in contatto con Squarcione. Squarcione è un po' un artista sottovalutato nella storia dell'arte, perché uno pensa a Squarcione e se va a Squarcione, aveva la bottega più importante a Padova, e sotto Squarcione stava Andrea Mantegna. Quindi, voglio dire, diciamo colui che insegnò la prospettiva a Mantegna. Quindi comunque, personaggi che magari non sono mai sentiti nell'arco della storia dell'arte, ma che sono certamente entrati in contatto con grandi personalità. Quindi questo non esclude anche Packer. Dal 48 al 56, eccolo qui, Andrea Mantegna e Niccolò Pizzolo sono impegnati anche loro alla Cappella Ovetari. Non a caso Rasmo nel 69 dirà che la Cappella Ovetari è una sorta di palestra per i giovani artisti, perché dal 47 c'è Giovanni da Ulma e Antonio Vivarini, molto famoso a Venezia. L'anno successivo, con loro ancora dentro Vivarini e Ulma, entrano Andrea Mantegna e Niccolò Pizzolo. Se uno voleva imparare qualcosa di importante come la prospettiva, andava direttamente alla Cappella Ovetari. Nel 1453 però Donatello, dopo 10 anni, lascia la città. Cosa fa a Padova Donatello? Lavora alla Basilica del Santo, l'altare che vedete, le sculture sull'altare, ma soprattutto il Gattamelata, quella statua equestre che è posta fuori. Dopo 10 anni lui lascia la città. Nello stesso anno morirà anche Niccolò Pizzolo, ma per altri motivi, perché Niccolò Pizzolo accetta una sfida, dopo aver bevuto un po' troppo una sera, accetta una sfida e la perde, viene accoltellato proprio nei pressi del Gattamelata. Quindi diciamo che purtroppo alla metà degli anni 50 questa grande spinta artistica che proveniva ideologicamente da Firenze si spegne un po' perché Donatello se ne va, un po' perché l'altro... Scusa Sergio, se sì. Ti chiedo una cosa. Sono stati trovati documenti su Packer a Padova? No, purtroppo no. Cioè, dico purtroppo, anche se in effetti è un po' come se stessimo a parlare del sesso degli angeli, nel senso che non ho trovato documenti in merito a Michel Packer. Infatti sono andato in cerca anche di documenti in merito a Michele Teutonico o Michele d'Alemagna, perché evidentemente era quello il senso, e non ce ne sono, documenti non ce ne sono. Ciononostante ancora oggi si scrive che Packer è stato certamente a Padova. Allora, in una sorta di lezione comune vi faccio vedere, attraverso un metodo di Morelli, che è un metodo, Morelli era il miglior allievo di Freud e si è applicato nella storia dell'arte, una sorta di parallelismo per vedere cosa possiamo riscontrare nelle opere di Mantegna e poi nelle opere di Michel Pachet. Questa è un'opera che purtroppo, come vi dicevo prima, è andata completamente perduta perché è stata bombardata. Oggi abbiamo piccolissimi frammenti, sono stati ricostruiti, ma... Ok, questo è il Battesimo d'Ermogene. Come vedete, questa è un'opera di Mantegna a Padova. Questa architettura di sinistra ha uno scorcio molto forte. Se noi andassimo a collegare queste linee, vedremo che il loro punto di giuntura sarebbe molto basso. Infatti è tipica la prospettiva appunto di fuga ribassato di Mantegna, questo per creare la monumentalità al primo piano, abbassa il punto di fuga. La parete esterna, faccio così vediamo, questa parte qui è frontale allo spettatore e ancora una volta c'è una teoria d'archi a tutto sesto non a caso, perché Mantegna si rifà la cultura classicheggiante alla cultura romana, quindi l'arco romano è l'arco a tutto sesto, anche se sappiamo che Mantegna andò a Roma solo in tarda età, quindi era più un interesse estetico che un interesse storico quello. Poi abbiamo questi personaggi che stanno osservando la scena. Siamo nel 1456 a Padova. Vediamo se c'è un confronto con Michel Pachet. Domanda retorica perché sapevo che c'era. Ecco, qui siamo davanti a il Sant'Agostino davanti al demonio, un'opera di Michel Pachet piuttosto conosciuta. Anche in questo caso abbiamo la parete di sinistra fortemente scorciata, questa è una delle 30 opere che ho ricostruito nel libro, e si vede esattamente come il punto di fuga, esattamente come Mantegna, è ribassato e cade vicino in prossimità del ginocchio di questo diavolo antropomorfo. Quindi la parete di sinistra fortemente scorciata, la parete di fondo frontale allo spettatore, e sotto c'è una teoria d'archi. Certo, non la realizza con la stessa finezza di Mantegna, uno è Mantegna, uno è Pachet, sia chiaro. Più che altro noi sappiamo chi era l'allievo, il maestro di Mantegna, non sappiamo chi potesse essere il maestro di Michel Pachet, a parte ulteriori teorie. E poi se vi dico anche che Mantegna sposa la figlia di Giovanni Bellini, chiaramente andava dal genere, insomma, ci piaceva dare un po' di disegni, insomma, stiamo parlando di persone molto importanti. Notiamo quindi anche però queste due figure che stanno osservando la scena, esattamente qui sono tre, d'accordo? Ora vi chiedo io le ho viste queste cose. Questa è un'opera del 1470, all'incirca la metà degli anni 70. Io ho riconosciuto in parte per un'opera per Bressanone, in particolare questo è per l'altare dei padri della chiesa, una portella esterna. Sembra la via centrale di Brunico, potrebbe essere una via di Bressanone. Le architetture quelle sono, e anche quello era il modo per rendere contemporaneo un fatto che magari era avvenuto ovviamente ai tempi di Agostino di Ipona, quindi non stiamo parlando certamente di un'architettura tirolese, no? Quindi le vicinanze ci sono, in particolar modo in questo caso. Certo, quest'opera, apro un codicillo solo, è diventata stranamente famosa per un suo significato esoterico, compare in alcuni film come ad esempio Il tocco del male di Denzel Washington, insomma film dove comunque bisogna sempre sottolineare il demonio e quant'altro, no? Perché sembra che questo santo stia benedicendo il demonio, perché si è partito da un errore di fondo di una teoria degli anni 70 che riconosceva questo santo come il santo San Volfango. Allora, guardando la storia del santo, si diceva: ma San Volfango non ha avuto collegamenti con il demonio, giusto con un'adultera, quindi il demonio visto all'interno di oppure un bambino che andava esorcizzato, perché il demonio? Allora, quest'opera è una portella esterna di un altare del padre della chiesa commissionato da Leonard Nafter per il convento di Novacella, che è un convento agostiniano. Quindi mi sembra naturale che la parte esterna sia Sant'Agostino, e noi sappiamo che esiste nella vita di Sant'Agostino un episodio in cui Agostino incontra il demonio, che Pachet fa un po' un riassunto. Questo libro era un insieme di tutti i peccatori del mondo. Agostino cerca il suo nome, scopre che non ha commesso con pietà, che è la preghiera prima di addormentarsi. Allora lui prega in quel momento, quindi non sta benedicendo il demonio, sta pregando in quel momento. La storia ci racconta che in realtà lui va a casa, prega, poi esce, ritrova il diavolo, però qui Pachet avrebbe dovuto fare 20 portelle su una, fa un riassunto e comunque riesce. Cosa importante, perché se Pachet è stato a Padova negli anni 50 e vede quest'opera, riproduce una cosa simile 20 anni dopo. È una cosa che fa riflettere anche chi è convinto di un possibile viaggio a Padova, perché le novità normalmente andavano, se io vedo una novità la impongo subito o qualche anno dopo, non dal 56 al 76, sono 20 anni, qui vi faccio vedere un po' i particolari, ecco, che vi dicevo prima. Quindi sicuramente Packer ha visto queste opere. Poi nel libro c'è una mia teoria, che poi... Questo è Niccolò Pizzolo, magari meno conosciuto, sempre presso la Cappella Ovettari, chiesa degli Eremitani, Cappella Ovettari, la Cappella Gentilizia. Vedete che se noi prolunghiamo queste linee qui, di questi tondi, le prolunghiamo, abbiamo un punto di fuga abbastanza basso. Questo è dovuto perché questi tondi erano molto in alto, quindi l'occhio dello spettatore è basso rispetto ai tondi che stanno in alto. Ma cosa che ci interessa di più è la proporzione di questi padri della chiesa all'interno di questi tondi, che noi possiamo rivedere, siamo negli anni 50, nell'opera che vi parlavo prima, grazie a quest'opera Longhi si interessa a Packer, che è l'altare dei padri della chiesa, in cui riconosciamo Gerolamo, Agostino, Gregorio e Ambrogio. Anche qui c'è una proporzione all'interno, solo che mentre lì si respirava aria fiorentina, cioè il cerchio, il tondo, una proporzionalità rispettata, quindi una prospettiva ribassata, in questo caso mi sembra che Packer si avvicini all'Italia, ma rimangono questi baldacchini aggettanti che sono un po' metafisici, perché sembrano non restare in piedi, e comunque ciò che lui utilizza non è una prospettiva punto di fuga ribassato. Vi posso dire quello, senza rovinarmi una sorpresa, che se noi ricostruiamo come ho fatto lo spazio, ogni convergenza va a toccare un attributo del padre della chiesa, ad esclusione di Traiano, perché è l'unico, se vedete bene, che è in primo piano. Infatti, siccome la storia è Gregorio salva Traiano dalle fiamme dell'inferno, possiamo riconoscere qui un po' meno, ma comunque si possono riconoscere le fiamme dell'inferno. Faccio notare solo la capacità di Packer, che teniamo, c'era un genio, perché è la giusta sintesi tra cultura tedesca e cultura italiana, con un pizzico di sua personalità, che l'hanno reso, purtroppo non capito per 400 anni, ma quando poi lo si capisce, sì. Questo bambino qui, no, riguarda Ambrogio, la nascita mistica di Ambrogio, no? Come si fa a capire, o meglio, a dirlo si riesce, no? Però a dipingere una nascita mistica. Lui fa una culla con questa spalliera a semicerchio che sembra l'aureola del bambino. In sostanza è un po' un riassunto, una forma riassuntiva che fa come prima con il demonio, che è proprio in quest'opera qui, perché qui ci sono delle cerniere, l'opera si chiude e si vedono le opere, una delle opere che ho fatto vedere prima. E anche qui però siamo chiaramente negli anni 70. Teoria, questa è la teoria che produce Manofsky, Förster e poi Erasmo pubblica nel 69. 1457 Packer apre bottega Brunico, è vero, è l'unica data sicura che noi abbiamo di Michael Packer, tra l'altro anche la più vecchia che abbiamo di Michael Packer. Chiaramente poteva aprire bottega dopo aver fatto 5 anni di apprendistato, normalmente lo si cominciava a 12 anni, quindi 12 più 5, 17, mettiamo 18 anni sicuri. Questo è il punto più debole della teoria di Erasmo, e d'altro canto lui doveva, comunque si doveva trovare una teoria, possibile viaggio a Padova. È 1435, e lo troverete anche nell'enciclopedia o qualsiasi altro libro, 1435-1430. Perché, non a caso, se noi non c'è nessun dato, nessun documento che attesti, anche perché non sappiamo dove è nato, se noi aggiungiamo al 35 i 17 anni, arriva fuori il 52. Quindi anno in cui lui finisce l'apprendistato. E siccome noi sappiamo com'è di norma anche oggi, quando ti diplomerai andrai a fare un viaggio, quando ti laurei andrai a fare un viaggio, stessa cosa. Quindi finito l'apprendistato si ipotizza che i suoi gli abbiano così suggerito un possibile viaggio, no? Che cade tra il 52 e il 57, cioè proprio quando lavora Niccolò Pizzolo, Giovanni da Ulma e Andrea Mantegna. Questa è una giusta giustificazione, se vogliamo, perché Erasmo e Manofsky volevano sottolineare la teoria del viaggio. Io non ho trovato documenti, per cui dico che questo potrebbe anche essere, solo che se Packer è stato a Padova è stato per pochissimo tempo, oppure non ha lavorato per niente, perché lì per lavorare bisognava essere iscritti alla fraglia dei pittori o degli scultori, e se si lavorava a nero erano gli stessi scultori e pittori che denunciavano, perché dovevano pagarci le tasse e quindi questo avrebbe creato un problema. Ho sentito anche un professore di economia in questo, ho chiesto aiuto, e creava proprio un problema nella microeconomia della città di Padova, quindi non si poteva fare. Io credo che Packer abbia visto quelle opere lì, tanto c'è da giustificare perché 20 anni dopo lui riprende quella cosa, e credo abbia visto quelle opere lì all'interno dei libri, i libri che sono sempre stati un po' sottovalutati, libri del 400, le miniature, l'artista che dipingeva il dipinto era lo stesso artista che dipingeva anche un libro del 400, che solo che si chiama Codice, però è un libro, e riprendeva la novità. Beh, noi sappiamo di almeno 40 libri provenienti da Padova che si spostano negli anni, dagli anni 40 agli anni 70, si spostano da Padova a Novacella, oggi sono a Novacella, alcuni poi sono stati spostati a Monaco di Baviera perché nel 1800 con le spoliazioni bavaresi hanno portato via tutto e anche il quadro che avete visto prima purtroppo. E quindi, siccome per chi ha studiato magari la storia dell'arte, Gombrich, che è una persona importante, no, con la sua storia dell'arte, lui diceva che era sempre il committente che decideva il programma iconografico. Quindi il committente dell'altare dei pari della chiesa è Leonard Nafter. Voi troverete il nome Leonard Packer, ho visto il documento, si chiamava Leonard Nafter. Quello fu un errore del 600, poi ve lo spiego all'inizio. Quindi lui, un abate di Novacella, vede questi libri, evidentemente questa è una mia ipotesi, vede questi libri e consiglia a Packer: fammi una composizione che abbia questo genere di tecnica, con questo punto di fuga ribassato. È l'unico modo, perché altrimenti noi dovremmo accettare che per ogni riferimento pittorico di Packer che proviene da Firenze, che ci sono, da Bruges o da Mantova, accettiamo che abbia viaggiato sempre, allora i dipinti che li ha fatti. È vero che la gente viaggiava molto di più di quello che sembrava, però ci sono delle opere, voi qui lo sapete bene perché a Gries c'è un altare, per quanto spogliato, che non lo si fa, c'è stato 5 anni a farlo, e in più manca la cimasa, mancano i due guardiani, manca la predella, quindi voglio dire, non si poteva pensare di viaggiare. Questa è una mia ipotesi che appunto ha creato un po' di interesse almeno questa cosa, e sono contento. Nella biografia vado verso, poi vi farò vedere poi le analisi chiaramente. 457 lui ha la cittadinanza a Brunico perché sposa Ottilia, quindi ha la cittadinanza grazie al matrimonio e apre bottega perché ha finito l'apprendistato. Da notare che nel documento ho notato come c'era espressamente scritto che il matrimonio era fondamentale, cioè se aveva finito l'apprendistato ma non, se non si fosse sposato era molto difficile poter aprire bottega. Questo è evidentemente un po' il segno anche dell'epoca. Questa è un'opera importante, una chiave di volta commissionata dal famoso Leonard Nafter, che è quello che vi dicevo prima, che lo coglie proprio da giovane. Oggi è l'unica opera che sta al Museo Civico di Brunico, siamo nel 57, per poi prendere la prima seria committenza. Questa è solo una portella di un altare di San Tommaso Becket, è solo una piccola portella, vedete come anche questa ricostruita, però già così vedete l'interesse per la terza dimensione. Cioè questo letto su cui oramai riposa il santo morente, cioè è morto, vedete com'è forte impregno della cultura italica, che però sbatte contro chiaramente quegli angeli regi drapo che di cultura italiana hanno ben poco, ma che se voi andate a Vipiteno riconoscerete certamente nell'altare di Hans Münscher terminato nel 58. Quindi è una sintesi, lo spazio non è ancora soggetto, sono ancora le figure e soprattutto le mani. C'è un paragrafo sul dialogo delle mani che è importante, lui le sottolinea anche con appunto i punti di fuga. Questo è l'altare di San Lorenzo, quindi fa carriera da una piccola opera a Novacella, perché è piccola, arriva nella chiesa più importante di Brunico, la chiesa di San Lorenzo. Oggi è la chiesa più importante di San Lorenzo perché il comune si sono separati, insomma. E anche in questo caso vedete come c'è una certa attenzione per la terza dimensione, le figure sono leggermente sproporzionate, ancora figlio di una cultura fiamminga se vogliamo, però sta già arrivando verso lo stile italiano, non è ancora totalmente italiano, sarà negli anni 60. Non compare assolutamente nulla di Mantegna e riconosciamo iconograficamente il San Lorenzo, i committenti e i viandanti sulla destra. La soluzione, perché anche queste ricostruzioni che ho fatto permettono, dopo le vedrete bene, di sottolineare dei punti all'interno del dipinto che hanno un valore che passa da iconografico a iconologico. In pratica la stampella sorregge il viandante esattamente come San Lorenzo, che in questo momento rappresenta la Chiesa con la C maiuscola, quindi l'istituzione della Chiesa, quindi la stampella sorregge il viandante esattamente come la Chiesa sostiene i misericordiosi, sono i poveri, grazie all'utilizzo dell'elemosina, che, perché questa cosa avvenga, serve comunque la preghiera dei committenti. Quindi questo è il discorso. L'unica figura che in sostanza stavo per chiederti, appunto, i viandanti, l'uomo con la barba mi sembra tutt'altro che un viandante, avendo la barba curata, diciamo, comunque, e non essendo vestito esattamente come un viandante. Sì, infatti, si intravede solo una giacca, mi sembra. Sì, questa figura qui, questa, in pratica è stata presa in considerazione da Niccolò Rasmo come possibile. Io dico Niccolò Rasmo perché è considerato uno dei maggiori storici dell'arte, trentino tra l'altro, di nascita, che ha studiato Michel Parker. E in sostanza lui dice che quest'opera, cioè, o meglio, che questo sia il ritratto di Friedrich Parker. Lo trovo un po' difficile dopo aver visto i documenti, considerando che Friedrich Parker non era ancora a bottega di Michel Parker, quindi al limite ci poteva essere un ritratto di Michel Parker. Tra l'altro la confezione dell'abito, come diceva precedentemente Ilis, non sembra un abito da viandante, è vero, ha la barba, ma anche grazie agli studi di Inerhofer, che compila anche il catalogo del 98, diceva che proprio come a Firenze c'erano l'ospedale degli innocenti e quant'altro, gli veniva tagliata la barba ogni 2 settimane i viandanti. Questa è una barba curata, e anche il cappello. Allora, per dire questo, devo raccontarvi questa piccola storiella. Noi sappiamo le date di quest'opera, 1462, un certo sarto Maurizio, sarto di corte di Sigismondo, che stava nel castello di San Michele. Se andate a Brunico lo vedete, perché è proprio, cioè, un castello abbastanza grande, è proprio in prossimità di Brunico. Lui lascia in testamento 500 ducati per terminare l'altare, terminare quindi vuol dire che era già incominciato l'altare di San Lorenzo per opera del maestro Michel Parker. E quindi lui, questa è la mia teoria, la mia ipotesi, ve lo sto dicendo come ipotesi, potrebbe essere il sarto Maurizio, quindi un committente già morto alla fine della realizzazione. Perché non inserito assieme agli altri committenti? Perché lui è morto e gli altri no, e perché c'era una forte superstizione nel 1400 su queste cose. Infatti lui sta osservando la scena da fuori. Non credo sia Friedrich Parker per via dei documenti non trovati, non credo sia neanche un viandante. Poi nei primi anni 60 quest'opera, dove vi ho già fatto vedere, diciamo, l'aspetto riassuntivo, poi qui chiaramente per San Gerolamo c'è il leone con la spina, tutti scappano tranne San Gerolamo, che allora leva la spina dalla zampa, l'episodio di Agostino con il bambino che vuole prosciugare l'oceano con un cucchiaio, e Gregorio che salva Traiano dall'inferno. Ecco una cosa, in Italia, entriamo nel 400, quindi qui siamo nel Tirolo meridionale, allora io dico, in Italia nel 1400 un'opera del genere sarebbe stata rifiutata, perché un soggetto non poteva farsi vedere in questa maniera qui, cioè ci sta mostrando il fondoschiena allegramente, ed è una cosa che ritorna in Michel Parker. Quindi, però questo è anche un fattore che lo lega a una certa simpatia per la pittura fiamminga, che non è nuova a queste cose. Qua è uno dei più importanti tabernacoli di tutto il Tirolo, questo qui si trova a Monguelfo, fortemente rovinato da un'inondazione nell'Ottocento, e quindi restaurato, quindi ciò che vedete in realtà è un po' così, insomma, diciamo che io l'ho messo perché vi stavo spiegando la biografia. Questa è solo una delle 4 edicole, ma è molto bello, se andate a Monguelfo lo potete osservare. Certo, non è, sono una di quelle poche opere rimaste ancora qui, so che sto parlando a voi che avete l'altare di Gries qua, però dico, in questo senso è importante. L'altare di San Wolfgang invece è un altare straordinario per la storia che ha, perché è l'unico altare ancora nel suo luogo originario, ancora integro, firmato e datato. Quindi abbiamo il Giornale dell'Arte, ora spero di non sbagliare la pronuncia, il Butter für Tirol, nel 1838 scrive... sì, sì, diciamo, il giornale dell'arte, ho trovato questa cosa, sì. Nel 38, 1838, per primo scrive di questo altare, dice che Michael Packer è un artista eclettico ai livelli di Michelangelo. Tirava l'acqua al suo mulino, ovviamente, però non possiamo neanche nascondere come che Michael Packer abbia realizzato un'opera straordinaria. È grazie a quest'opera che la critica d'arte tedesca, perché qui poi va sempre un po' divisa, no? Almeno fino alla metà degli anni 50, ciò che scriveva la critica d'arte tedesca, ciò che scriveva la critica d'arte italiana. Normalmente la critica d'arte tedesca scriveva e cercava un approccio filologico, in Italia Packer non veniva considerato perché non troppo vicino a Mantegna, quindi... Cioè. Allora, in questo caso vedete le storie di San Wolfango, il santo. Queste si trovano nel paese di San Wolfango, nell'Austria orientale, i due guardiani, che avrebbe avuto anche l'altare di Gris, ma che oggi non ci sono più, la cimasa e la predella, che è la parte sotto. E poi chiaramente l'altare si apre, mostra queste otto portelle con la vita di Cristo, e anche qui c'è la compartecipazione sia di Michael Packer che di Friedrich Packer e di Johannes Packer, che era però il figlio, questo lo sappiamo, era il figlio di Michael Packer, gli fa fare, perché non particolarmente dotato, gli fa fare la cimasa, questa parte architettonica in alto. Perché? Perché è in alto e anche se sbaglio la vedranno in pochi. E allora, mentre gli altri, chiaramente, alla fine tra l'altro abbiamo un documento che attesta come alla termine di questo altare litigheranno Michael Packer e Friedrich Packer perché... appunto Michele, diciamo, disse a Federico: hai fatto un lavoro pessimo perché ti ho lasciato troppo in mano il lavoro. E poi lo vediamo nello specifico, però annuncio solo un piccolo codicillo, che è quando noi parliamo di Michael Packer e Friedrich Packer hanno realizzato queste opere, è un po' come se noi parlassimo di Raffaello e Giulio Romano. È sempre il maestro che fa l'impostazione spaziale e poi l'allievo fa le figure. La scuola di Atene di Raffaello è stata impostata da Raffaello, poi dipinta e conclusa da Giulio Romano. Questo caso esemplare è uguale. Tutte le architetture che voi vedete, le prospettive che voi vedete, sono tutte opere di Michael Packer. Friedrich Packer fa i personaggi, ed è su quel punto lì che c'è stato da ridire, insomma. Ecco, questo invece è l'altare lato festivo, cioè con lo scrigno, che era la parte più importante di un altare, parte anche più costosa. Per il costo di questo scrigno potevano anche vendere tutte le altre portelle, non sarebbero arrivati al costo dello scrigno. Nel 400 e anche nel 500 la scultura costa molto di più rispetto alla pittura. E qui c'è chiaramente un'incoronazione di Maria, i guardiani che erano posti fuori chiaramente dallo scrigno sono coperti da queste portelle, che mostrano quindi un ciclo mariano, cioè sono tutte portelle che mostrano la vita di Maria, e come normale che sia se sullo scrigno abbiamo l'incoronazione della Vergine. Faccio vedere solo un particolare, prendiamo in esame la parte inferiore, questo è lo scrigno con le quattro portelle, eliminando la cimasa, eliminando la predella. Lato inferiore, questa tavola qui e quell'altra, in particolar modo la circoncisione di Cristo. A Venezia mi hanno detto: ma circoncisione di Cristo? Ma sì, Cristo era ebreo, cioè alle volte c'è chi se un po' se ne dimentica. Allora, quest'opera è importante, vi dico che non c'è una prospettiva centrale in quest'opera, ma c'è una tecnica che usavano i romani nel primo secolo d.C. ed è una cosa straordinaria come Packer nel 1481 utilizzi quella tecnica, si chiama tecnica di divisione simmetrica o all'isca di pesce. E ancora oggi si dice che invece si è utilizzata una prospettiva centrale. Ho realizzato un libro con i disegni, è matematica e si vede che non è così. C'è un'immagine che forse l'avrete già vista, che emerge di più rispetto a tutte le altre, che è questo giovane che sta guardando esternamente dal dipinto. Anche qui Rasmo interviene e dice: ah, è il ritratto di Michael Packer. Sì, può essere, perché si utilizzava fare una cosa del genere, cioè colui che guarda di fuori del dipinto, che non c'entra nulla con la storia, può essere, questo è un altare, era il secondo altare più alto in Europa dopo quello di Cracovia nel 400, quindi ecco perché Packer è un artista europeo e non solo un artista locale. Però se noi andiamo a vedere quell'altra opera, che è sullo stesso ripiano, cioè sul lato inferiore, vediamo innanzitutto l'attenzione di Packer nell'inserire gli occhiali a San Pietro. Chiaramente non presenti gli occhiali nell'epoca di San Pietro, ma qui sì, e qui è spiegabile con il committente, probabilmente uno dei committenti di quelli che pagavano probabilmente faceva occhiali e voleva che quel modello in particolare, è una cosa normalissima, a Padova, a Venezia venivano queste cose. Sì, sì, è la cosa, lo vedremo anche dopo in Packer, con l'assassinio di Papa, con l'arresto di Papa Sisto, le armature sono le armature che sono state poi ritrovate in un armaiolo a Brunico. Cioè, la pago io, fai vedere che... Ok, quindi lo spirito dell'economia è un qualcosa che... Ma la cosa, diciamo così, più interessante è che questi apostoli, tanto vi faccio notare che la prima volta inizia un arco a tutto sesto di reminiscenza italica, con una specie di horror vacui, cioè tutti, non c'è un punto vuoto neanche a cercare... Quindi fiammingo e italiano, e di fianco c'è una tavola che è chiaramente fiamminga, perché... A parte la tecnica che vi ho detto che è addirittura romana, dell'ultimo stile, quindi stiamo parlando insomma di Commodo, ecco, siamo nel periodo in cui c'è Commodo come imperatore. Ecco, c'è questo personaggio qui che sta guardando fuori dal dipinto. Allora evidenziamo il presunto Michel Packer, evidenziamo quest'altro personaggio, sembra che i due si stiano guardando. Ma siccome lui quest'opera per fortuna l'abbiamo integrale, noi dobbiamo contestualizzare sempre, no? Quelle opere non sono vicine, di mezzo c'è uno scrigno che è la parte più importante, per cui evidenziamo i due uomini, stanno guardando cosa? Probabilmente stiamo parlando di arte, stiamo parlando di teorie artistiche. Packer non ha un diario in cui scrive questo, però noi lo possiamo spiegare questo anche grazie a una tecnica che ho inserito nel libro, cioè quella di ricostruire lo spazio. Si vedono delle figure che diventano importanti perché accolgono delle convergenze. Allora, perché diventano importanti? I risultati si possono vedere così. Probabilmente stanno guardando la scena più importante, che è l'incoronazione della Vergine. Allora, si è parlato di Packer a Padova, ma certamente Packer apprende qui, perché se non è stato a Padova ha imparato attraverso dei libri, dei codici, ma è evidente che Packer, non sappiamo chi fosse il maestro di Packer, ma certamente si è ambientato qui, chiaramente. Jacopo da Secco è un pittore di una regione prossima alla Baviera, che porta una sorta di pittura che ho chiamato un espressionismo antelitera, cioè è una pittura molto purtroppo sadica, non so se avete... in Valle Urina ad esempio, ma anche nel chiostro di Bressanone, quindi Bassa Pusteria e in Valle Urina, si trovano queste sculture in cui compare il Cristo che sembra docciarsi con il sangue, con gli occhi che escono dalle orbite. Questo è colui che in sostanza porta questo genere in Italia, lo porta in Val Pusteria. Influenza Leonardo da Bressanone, che è il maestro di corte di Novacella, e secondo la teoria di Lionello Puppi, che scrive nell'81, è anche il maestro di Michel Packer. Un'ipotesi, chiaramente era il pittore-scultore più importante, quindi probabilmente si è formato lì. Ciò che possiamo dire con certezza è che Packer si rifà ad Hans Mulcher, che si dovrebbe scrivere un libro a parte solo su Hans Mulcher, e che lavora a Vipiteno, crea un altissimo altare nel 58 per tutto. Lui non voleva andare a Vipiteno, lui ci va a patto di non pagare le tasse nel periodo e Vipiteno, il comune di Vipiteno accetta. Packer, giovane, cerca di capire come non fare a pagare le tasse, quindi cerca di andare a vedere se può cogliere con l'occhio qualcosa. Quindi, ma infatti vediamo alcuni riferimenti a opere che tra l'altro Benito Mussolini regala a Göring, e solo grazie a Niccolò Rasmo oggi queste opere sono al museo a Vipiteno, aveva la signora molto informata, e quindi anche hanno una fortuna critica particolare. Maestro delle Orsoline, perché Packer era anche scultore, io nel libro non parlo della scultura, però è inevitabile, Packer era anche uno scultore, quindi maestro delle Orsoline che arriva a Brunico, e maestro delle Orsoline era allievo di quel Giovanni da Judevor che ho citato all'inizio, che aveva fatto quel crocifisso, che c'è ancora, alla chiesa di San Giorgio Maggiore a Venezia. Quindi alle volte, anche senza andare a proporre un viaggio o a definire è stato certamente in quel, basta studiare, sono voluti 2 anni per fare un affresco storico, per capire che magari giustamente Maestro Orsolini era certamente l'allievo migliore di Giovanni, Infatti Brunico chiama Giovanni, ma Giovanni non va, va a Venezia e manda il maestro dell'Orsolina. Il maestro dell'Orsolina deve aver avuto qualche disegno, è sempre così. Il maestro non lascia l'allievo solo, gli dà sempre qualcosa, no? Cioè, anche nelle botteghe artigianali oggi succede così, quando l'allievo va via poi qualcosa dà. Una figura che ha creato non pochi problemi, soprattutto in passato, è il maestro di Huttenheim, che come voi saprete meglio di me, è il nome originario di, quello che, di quel paese che noi oggi chiamiamo Villottone, che si trova tra, tra Gais e Capotures in Valle Orina. Lui lavora moltissimo, non sappiamo il suo nome. Otto Pecht, un storico dell'arte importante soprattutto per quanto concerne la miniatura, diceva è certamente il maestro di Michael Packer. Non abbiamo le date, però dalle attribuzioni fatte sui suoi dipinti possiamo arrivare a dire che era di poco più vecchio di Michael Packer. E poi non conosceva la prospettiva, se non la conosceva come faceva ad insegnargliela? Packer non ha avuto mai degli allievi, a parte Johann Packer, che ebbe il merito di dilapidare il patrimonio paterno, perché quello fu sostanzialmente, e non ebbe mai dei grandi... non fu neanche il primo, cioè una serie lunghissima, fu Friedrich Packer. Michael Packer lavora in senso orizzontale, non in senso verticale, anche la mostra che hanno fatto Michael Packer e la sua cerchia, non a caso. Packer lavora con una cerchia di collaboratori. Friedrich Packer oggi lo chiamerebbe un collaboratore con la partita IVA, non era un suo allievo, solo Johann Packer lo fu e non ebbe un grande successo. Ora passiamo invece alla chiave di volta del libro, con lì vedrete un triangolo rovesciato, vi dirà poco, è una costruzione di divisione simmetrica, un principio d'asse di fuga, vi porto un esempio, non a caso l'ho preso apposta da una miniatura, questo per dar valore a quello che dicevo prima. Vedete come queste linee di fuga, in questo caso delle architravi superiori, si congiungono a due, forse vado meglio se lo mostro qui così, si congiungono a due sempre su una stessa asse, che per definizione l'asse, che sia verticale o orizzontale, è sempre una linea retta che passa al centro di una composizione. Se guardate, siamo nel secondo quarto del IX secolo, questa e i punti sono equidistanti, ecco perché viene detta anche principio all'isca di pesce, ad esempio, un'isca di pesce. Si passa ad un altro tipo di rappresentazione, siamo passati, quella era la bisnonna della prospettiva, questa è la nonna, con delle linee scorzate, vedete come esistono sempre a due le linee di fuga, però questa volta i punti che si vengono a creare sono scorciati, non sono più equidistanti e siamo lontani dalla teoria che vuole la prospettiva, un unico punto per tutto il piano. Qui creiamo un'infinità di punti, quindi a sinistra l'esempio, a destra il principio, e anche in questo caso stiamo parlando di una miniatura, quindi importante anche l'utilizzo. Insomma, questa è la tecnica che usa Packer. Qua siamo, ora vi dico, siamo nel primo secolo dopo Cristo. Packer riprende questa cosa nel 1481, solo nella parte superiore, vedete, sempre linee di fuga con più punti, non equidistanti tra di loro, non equidistanti, che servono per dare la sensazione della tridimensionalità, fino ad arrivare ad Ambrogio Lorenzetti, un'opera molto famosa questa, però anche a Ivan Eyck, così facciamo un po' di par condicio anche con i pittori fiamminghi, con un unico punto sì. Infatti prima vedete che si avvicinavano sempre di più questi punti, no? Un unico punto sì, ma legato ad un unico piano. I piani della composizione, in maniera semplicistica, sono due: la parte della pavimentazione e il soffitto. In realtà sono anche quattro, perché ci sono anche i piani laterali. Questo è a fondo oro, quindi l'oro blocca ogni possibile penetrazione, diciamo, ed ecco quindi la pavimentazione con un unico punto. Questa era la tecnica che utilizzava il maestro di Huttenheim, per quello dicevo che non poteva avergli insegnato la prospettiva. Arriviamo a Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, il primo che passò da muratore architetto ad intellettuale, quindi una persona importantissima nella storia dell'arte mondiale. Lui parte da una prospettiva, o meglio, parte da una composizione con un unico punto, che avete visto prima, e dice: ma perché non la facciamo anche nella parte superiore, mantenendo sempre quel punto in comune? Prolunga le linee anche alla parte superiore, si interessa che quel punto rimanga al centro del suo dipinto, e lui crea quindi un unico punto per la parte inferiore, parti superiori e le due parti laterali. Lo faccio vedere con un dipinto, questo è il principio, ed è questo che si considerava come termine prospettiva. Questa, dai vostri volti vedo che non ha bisogno di presentazione, e c'è, quindi io qui ho ricostruito, vedete, come notate come tutte queste linee vadano a toccarsi in un unico punto, e non a caso questo punto si trova nel volto di Maria, che sempre non a caso è al centro della composizione. Questo è il tipi, è la tipica prospettiva quattrocentesca, prospettiva centrale, prospettiva italiana, la corretta prospettiva, quello che noi dovremmo vedere in un dipinto, in teoria, di Michael Packer, quando parliamo di prospettiva. Chiaramente qui è evidente come si realizzava prima lo spazio e poi le figure, perché benché il dipinto è sempre una finestra sul mondo, quindi tutto quello che io devo mostrare allo spettatore deve avvenire all'interno della finestra. Quindi io sarò pur sempre costretto dai margini del dipinto, per quanto grande possa essere, per cui io ho questi margini, mi faccio tutto lo spazio, ok, l'architettura non facile, e poi vado ad inserire la figura più importante, in questo caso Maria, che dovrà con il volto prendermi la convergenza centrale. In Italia si faceva così, quindi il soggetto della pittura italiana è lo spazio. Le figure sono attori, per quello inizia a venire fuori anche il teatro e tutta una sorta di interesse maggiore nel teatro, non solo perché si riprendeva dal mondo classico, ma proprio perché è chiaro che Maria ha un ruolo fondamentale, ok? Però è quasi come fosse un'attrice all'interno di questo dipinto, perché sicuramente Piero della Francesca era più interessato a realizzare quella volta e a far rimanere a bocca aperta gli spettatori, perché diceva: ecco, ho realizzato quella volta. Vedete, questo punto passa per l'asse verticale e per l'asse orizzontale, quindi al centro. E adesso passiamo a queste, me ne ho messe alcune composizioni, così vedete bene di quello che ho scritto. Questo è una portella dell'altare di San Tommaso Becket, siamo nel 59, e era quella che prima c'era il defunto San Tommaso che guardava, ci dava le spalle, no? L'altra portella è questa, piccole dimensioni, fatto realmente accaduto 1170 nella cattedrale di Canterbury. Muore, viene ucciso Tommaso Becket per opera del monarca inglese che lo imbroglia, diremo così, ecco, per non... e abbiamo l'assassino che lo colpisce. Notate come sia ancora una volta siano i personaggi i veri soggetti, non lo spazio. Lo spazio prende questi personaggi, ma in realtà non li fa respirare moltissimo, ecco. Lo spazio dovrebbe dare aria, dovrebbe dare importanza ai soggetti, in realtà i soggetti l'importanza se la prendono da soli, perché lo spazio, chiaramente Packer non aveva mai visto la cattedrale di Canterbury, quindi si fa un'idea tutta sua, un'idea italiana con quell'arco, ad esempio. Vedete questa figura qui, che è tipica della pittura fiamminga, sta osservando la scena, io la immagino in punta di piedi, mentre sta spostando il capo in punta di piedi per vedere la scena. Se non fa così non vede. Queste sono delle ironiche, sono delle soluzioni, neanche ironiche, sono delle soluzioni tipiche della pittura fiamminga, che in Italia sarebbero state magari rifiutate perché non ponderate, non così eleganti. Passiamo in bianco e nero, mi hanno in altre precedenti conferenze mi hanno etichettato come radiografo dell'arte, perché passo in bianco e nero ai dipinti, come vedete anche nei libri, perché solo così si riesce a vedere maggiormente la composizione. Quindi cerchiamo di ricostruire lo spazio, vedete? Io ritiro le linee che Packer stesso ce le ha tirate e vediamo dove vanno a cadere. Quindi pavimentazione, parte superiore di questo altare, crea una convergenza che è la convergenza A. Ecco così. Rispetto all'opera che avete visto precedentemente, può essere considerata una prospettiva centrale italiana? No, perché doveva stare al centro della composizione, non così a lato. Però lui non lavora a Padova, non lavora a Firenze, lavora a Novacella, e a Novacella non è ancora arrivata, no, è molto importante Novacella, però non è ancora arrivata la, diciamo tra virgolette, l'editto di realizzare le opere con una certa correttezza, e altrimenti verranno rifiutate. Però lui è ancora libero di far questo, ma in realtà lui ha già un programma, e poi adesso ve lo mostro. Il lato destro, poi, quelle architravi là in alto, crea una seconda convergenza che è il punto B. Quindi due convergenze, è una prospettiva, no? È una composizione spaziale polifocale, più ha più fuochi, più fuochi, più convergenze, più punti di vista, sono sempre sinonimi. E poi una cosa che in Italia non sarebbe mai avvenuta per il discorso che vi dicevo prima, cioè il quadro è la finestra sul mondo, non può fugare, fugare è la prosecuzione delle linee, diciamo, non può fugare fuori dal dipinto, anche perché è la parte inferiore di un solido e la, la base superiore fuga nel punto A, e la, la base inferiore dovrà sempre fugare nel punto A, infatti crea un'aberrazione marginale, poi vi dico perché ho ricostruito anche eliminando le immagini per vedere eventuali errori. Passiamo a colori e vediamo dove cadono questi punti. Il punto A va ad intervenire sul soldato di sinistra, il punto B sulla mano del, sempre del soldato di sinistra. Inconsciamente il soldato di sinistra è quello che noi guardiamo maggiormente dopo la figura del santo, perché il santo è illuminato, è in primo piano, è molto illuminato, e per dargli luce maggiormente Parker cosa fa? Mette una faccia più scura del, del, del trono, che così non gli, non gli, che gli permette maggiore visibilità. Se noi accettiamo che, per quanto sia una diposizione positiva, ma se noi accettiamo che esista, ci facciamo illudere dalla terza dimensione di questo dipinto, che in realtà è su una base di legno, quindi terza dimensione, accettiamo il gioco, no? Dobbiamo anche accettare che Parker abbia guidato il nostro occhio in determinati punti, e i punti sono per farci cadere nel gioco, altrimenti non avremmo visto una prospettiva o comunque una composizione sbagliata. I punti A e i punti B. Il punto A individua l'assassino che sta compiendo l'azione, il punto B individua con che cosa sta facendo. A conferma di questa mia tesi c'è anche la spada, perché sì, noi diciamo che è una spada, ma la spada da un punto di vista grafico è un insieme di due linee, e queste due linee vanno esattamente a confinare con il punto B. Quindi è una linea di fuga visibile, oltre a quelle che ho realizzato. Qui si pone la domanda, ma Parker, perché ha anche scoperto il metodo, volevo tirare, cioè, i dipinti sono dei, dei documenti storici in cui si cerca di tirar fuori più informazioni possibili. Per cui, scoperto il metodo, volevo capire il modus operandi di Parker, cioè prima dipinge o prima realizza lo spazio, come si diceva prima per quanto riguardava l'Italia, no? In Italia già lo sappiamo. E lui invece qui no, prima realizza le figure e poi realizza lo spazio, perché altrimenti, come vediamo in quest'opera, che è la stessa però spogliata dalle immagini, lui avrebbe dovuto realizzare. C'è anche un altro punto C che io non ho inserito prima, ma che è ininfluente, e cioè andrebbe a toccare il santo, ecco, tocca il santo, andrebbe a questi punti qua, come avrebbe dovuto dire, bene, questo è il punto B, da qua inizio a disegnare una mano e poi vado su, però c'è il rischio che esci dal dipinto. Io prima di laurearmi a Ca' Foscari, ho fatto una scuola d'arte, ho fatto il liceo artistico, e forse per questo dico che è impossibile partire da dei punti fissi e a ricostruire. Se sono al centro, come prima in Piero della, della Francesca, sai che è al centro e te la giochi, però così non, non ce la fai. È chiaro però che lui deve aver fatto, oltre alle figure, anche questo altare, non, non fugandolo, cioè non mettendolo subito in prospettiva, ma siccome occupa buona parte la base orizzontale, lo deve aver comunque realizzato in questo senso. E infatti qui c'è un errore, ve lo faccio vedere qui. Vedete questa faccia qui? Le linee sono tutte parallele una dall'altra, no? E, se, e orizzontali. In teoria dovrebbero essere orizzontali anche queste, perché questa è l'alzata, no? E poi qua c'è la pedata di un gradino, no? Quindi doveva essere retta questa linea, esattamente come è retta quella linea. L'errore l'ho fatto io, cioè ho fatto apposta, ho creato una diagonale a mio piacimento, perché se io dovevo tirarla dritta veramente sarei andato a finire sotto, sarei andato a finire sotto, e questa è un'aberrazione marginale, ma Parker questo non interessa, perché in quel punto lì lui inserisce il santo. Quindi questo, questa tecnica permette anche di vedere, di entrare nella bottega artigianale, perché questi sono artigiani, e cercare di capire effettivamente eventuali errori o no, e effettivamente come. Prego. Volevo chiedere una domanda indipendente che pare con Mr. Parker, no? Quel taglio di capelli che usano i sacerdoti allora, no? Sì, sì, questi qua, sì. Quel taglio lì era imposto o era una cosa? No, allora ci sono varie confraternite che prevedevano il taglio dei capelli sempre come sottolineatura del peccato, poteva sì, esserci, e lì bisognerebbe entrare per ogni ordine e trovare il motivo per cui tagliavano i capelli in una certa maniera. Normalmente i frati, penso ai francescani ad esempio, hanno usato questo genere di taglio, sì, e che ci vedono tante opere. Sì, e tante volte grazie ai tagli riusciamo, quando non abbiamo informazioni, riusciamo magari a riconoscere, grazie ai tagli e confraternite e quant'altro. A Venezia abbiamo di queste cose, anche se a Venezia ci sono sempre i documenti, molto spesso ce ne sono, insomma. Però è un elemento importante, perché se va studiato può dare dei risultati molto buoni, perché magari uno prima non sapeva, diceva semplicemente sono dei chierici, ma in base al taglio dei capelli uno fa uno studio e vede che magari erano dei francescani, oppure dei benedettini, o degli agostiniani. Su Packer sono interessanti soprattutto i capelli, ne parlo in particolar modo. Allora, questa è un'opera famosa, no? È stata nel catalogo del 98 sulla mostra Packer e la sua cerchia. Questa è la cattura di Papa Sisto. Vedete come a sinistra c'è San Lorenzo, siamo nel 65, abbiamo fatto quell'altra era della fine anni 50, primi anni 60, qui siamo nel 65. Avete visto sinora punti di fuga ribassati? No, perché quelli li abbiamo visto nel 70, no? Il santo ha il suo spazio proscenio, cito Degas, anche se non è, però Degas parlava dello spazio proscenio, cioè l'essere umano vive bene se ha almeno un metro attorno a lui. E qui Packer comunque crea una spazialità intorno a San Lorenzo che permette di vederlo bene per due motivi. Primo, perché è illuminato, secondo perché ha sempre questo gioco di chiaro scuro, terzo perché ha un colore rosso, che il colore rosso è un colore caldo. L'uomo è sempre attirato dai colori caldi, non a caso nei bersagli il puntino è sempre un puntino rosso, cioè noi siamo attirati dal colore caldo e non dai colori freddi. A destra c'è una scena dinamica e questo è l'armaiolo che vi dicevo, questa parte qui. Questa è un'armatura che vendevano a Brunico, era un'armatura del conte Sigismondo, che comprò poi il conte Sigismondo presso il castello di San Michele. Oggi il castello chiaramente è privato, però se lo chiedete con un mesetto di anticipo ve la fa vedere. E quindi, oppure sicuramente qui da Claudio Augusta l'ho visto lì, la versione tedesca del Michael Packer alla sua cerchia, c'è proprio la foto dell'armatura in particolare. Allora, anche qui posizione poco educata del soldato di destra, perché ci sta dando le spalle, non solo, e il soldato di sinistra sta portando via il Papa. La storia narra che il Papa incontrò San Lorenzo durante il suo tragitto. San Lorenzo disse, non so, la persona più adatta magari, però disse, cioè, stai calmo che non ti succederà nulla. Morì arso vivo, però andò poi in paradiso evidentemente, e dietro di lui Felicissimo e Agalpico, che sono due chierici, anche loro purtroppo fecero la stessa scena. Ancora una volta i soggetti sono le parti più importanti, non l'architettura. Io ho dei dubbi che il Papa riesca a passare sotto questo arco a Sesto Acuto. Non so come sia riuscito a passare il soldato di destra, certamente non riuscirà a passare il soldato di sinistra. Quindi questa cosa vuol dire una poca proporzione, ma perché? Vi dico solo questo, codicillo sui cappelli. Il cappello appuntito è vero che è un cappello tipico della tradizione tirolese, se vogliamo, ma il cappello appuntito è anche frutto è il cappello dell'anticristo. In questo caso c'è il perché che poi si è trasformato nella nostra cultura come il cappello dell'asino, il bambino che non studia, dice, sei un asino, dà quel cappello lì, che un po', cioè, si pensi ad esempio alle tre età di Giorgione, che ora stanno a Vienna, hanno fatto un'indagine ai raggi X, in internet trovate queste cose, e dei disegni preparatori c'era proprio questo cappello, e assomiglia a questo, chiaramente parliamo di Giorgione 4-500. Quindi contrapposizione tra il cappello laico di questo soldato e il cappello sacro, quello del Papa, con le tre corone. Allora, passiamo in bianco e nero, e vediamo la ricostruzione spaziale. La pavimentazione crea una convergenza A, poi vediamo dove cade, avrete già visto dove cade, una seconda convergenza del lato sinistro. Tra l'altro queste sono architetture che ho riscontrato nella via centrale di Brunico, quindi via Roma, poi c'è la via centrale, e poi convergenza B, e c'è una terza convergenza, questa sì è ribassata, quindi non stiamo parlando di prospettiva, è più ribassata ed è messa in prossimità del piede C, cioè come c'è la C in prossimità del piede. Passiamo a colori, vediamo meglio dove cadono. A cade sulla figura del Papa, B cade su un punto ancora una volta poco nobile del soldato di destra, C cade in prossimità del piede destro del soldato di sinistra. Questo lo vedremo comunque, primo perché il giallo è un colore caldo e perché il piede forma un triangolo che sembra uscire dal dipinto. Gli altri due vanno ad individuare dei soggetti ben specifici. Quindi le ricostruzioni fatte in questo libro, nei miei studi, intanto danno la possibilità di capire come, perché una volta si studiava così, Pache, l'ho visto in alcuni libri, ma possono esserci stati degli errori di valutazione. Lui voleva creare una prospettiva centrale e non c'è riuscito, allora ha creato tre punti. Sempre se l'hanno ricostruita, perché io non le ho viste ricostruite. Cioè io ho sempre letto nei libri, nella bibliografia di 40 libri, che Packer conosceva la prospettiva. In realtà questi che venivano considerati come errori di valutazione, se studiati approfonditamente, si scopre che perlomeno lui andava ad individuare delle personalità, e non è una cosa nuova, basta citare il codice Huygens per quanto riguarda la pittura fiamminga. Il Tintoretto fa la stessa cosa, lo fa nel 500, lo fa a Venezia, ma fa esattamente le stesse cose. Quindi Packer lo fa ancora prima. Questo per dire che stiamo parlando di un genio di caratura europea, è caratura europea. E vi racconto una storia. Questa è la cattura di Papa Sisto, opera che abbiamo visto 1462. Domenica di Pasqua 1460 viene arrestato il principe vescovo Nicola Cusano nel castello di Brunico con le truppe di San Sigismondo, e Brunico non fa assolutamente nulla perché Brunico era sotto il potere dei conti goriziani. Questa è un'opera che compare all'interno della chiesa più importante di Brunico, oggi San Lorenzo, un tempo di Brunico. Questa può essere considerata, ipotesi mia, una mea culpa della chiesa di Brunico. Ho fatto degli studi in merito al possibile ritratto di Niccolò Cusano. Il fatto era avvenuto solo 2 anni prima. Perché poi cosa nasce? Da questa incarcerazione di Niccolò Cusano, famoso per la sua beata ignoranza, che scrive sulla teologia, il fatto che non possiamo comprendere il Dio in quanto siamo fatti da materie e sostanze diverse, per cui non arriveremo mai a... Ecco, non può fatto un bignami, ecco, però... Ecco, però diciamo che quindi criticato sia dalla Chiesa che dal potere laico, da un certo punto di vista. E ho cercato dei riferimenti e sono un po' così, non si possono trovare, c'è un ritratto, un rilievo fuori dal chiostro di Bressanone e quant'altro, però potrebbe essere perché Bressanone, dopo la cattura di Niccolò Cusano, firma un editto secondo cui tutti i lavoratori di Brunico non potevano più lavorare a Bressanone. Ecco perché Packer poi si sposta, va a Monguelfo, poi in Austria, poi andrà a Salisburgo. Quindi una cosa importante, qui è un po' un mea culpa insomma della Chiesa. Anche qui ricostruendo il dipinto ho eliminato le immagini, vedete che lo spazio è molto povero, non è soggetto come nella pittura italiana. Qui è assolutamente, cioè questi punti non hanno un granché senso nei confronti della pittura, dello spazio stesso insomma. Vivono in funzione dei personaggi, o meglio dire come mi ha intervistato il Corriere della Sera qualche mese fa e mi ha detto, ma sostanzialmente la prospettiva di Michel Packer modifica la prospettiva per dare importanza ai personaggi, almeno sino agli anni 70, poi cambia. Qui siamo sempre all'altare di San Volfango, San Lorenzo, San Lorenzo davanti al prefetto, da notare l'imperium che tiene il prefetto, che era questo bastone di origine romana, basta pensare alla Repubblica, quindi il console insomma che teneva lì, lo stesso soldato che giunge a portare, e vediamo, passiamo in bianco e nero, siamo nel 1462, termina nel 1465, per la prima volta tutte le linee costruttive dello spazio vanno ad indicare un solo punto, si tratta di prospettiva non centrale, perché non è centrale, è una prospettiva monofocale. E cosa va ad inquadrare? Passiamo a colori e va ad inquadrare il pugno chiuso. La storia narra che il prefetto chiese i tesori della chiesa a San Lorenzo. San Lorenzo, con fermezza, quindi col pugno chiuso, indica i viandanti come gli unici tesori della chiesa. Allora, il pugno chiuso esprime la fermezza, esattamente come doveva essere ferma in quel caso lì la Chiesa nei confronti del prefetto, quindi una figura laica. Qui si stanno parlando sostanzialmente la Chiesa di Brunico e i vescovi di Bressanone e i goriziani. Questo è un dialogo fatto attraverso un dipinto, ma così si stanno parlando. Quindi un pugno chiuso che diventa da iconografico, cioè io riconosco un pugno, a iconologico, cioè quel pugno esprime una fermezza, una forza, e Packer la va ad individuare con una convergenza. Questa, siamo nell'altare dei padri della Chiesa, chiaramente è l'estasi di Sant'Agostino, notate l'ombra colorata, qualcosa che rivedremo poi Michelangelo, e quindi già da qui vedete un punto di fuga molto abbassato, una monumentalità del primo piano. Lo spazio qui in Packer inizia a cambiare, inizia ad essere più soggetto lo spazio, perché sono sicuro, almeno mi auguro insomma, che come è successo a me mi sono soffermato molto sull'altare, il trono, l'altare e sull'angelo in particolar modo, perché se noi passiamo il bianco e il nero, andiamo a tracciare le linee della pavimentazione, poi della scalinata, della parte superiore, riconosciamo un unico punto. Anche la parte superiore del medesimo altare, cosa che non succedeva nella prima diapositiva che vi ho fatto vedere, va a fugare in un unico punto che è esterno. È una tipica tecnica italiana quella di mettere la convergenza in un paesaggio. Così, anche se se commetto un errore, quindi i due punti non vanno proprio, siamo in un paesaggio, non c'è nessun problema. Invece lui no, li fa anche piuttosto corretti. Punto A. Faccio notare una cosa. Con questa diagonale lui divide il mondo terreno dal mondo spirituale in un'unica opera, perché qui c'è il santo ancora vivo in estasi, no? E la parte superiore che è la parte spirituale con l'angelo che alza questo ostensorio. E anche il piegamento del santo, cioè quella diagonale segna il piegamento del santo. Quindi in questo caso la famosa domanda sul modus operandi di Packer, ma ha realizzato prima lo spazio o prima la figura? In questo caso mi viene da pensare che ha realizzato prima lo spazio, perché così aveva già la diagonalità, ha diviso in due il dipinto, sa come lavorare nella parte superiore e come lavorare nella parte inferiore, e soprattutto sa come poter inserire quella figura del santo, cioè è proprio incentrato, insomma. E stiamo parlando di un genio, perché non sono cose che... Quindi il punto A, tornando a colori, non va in realtà ad intaccare nessuna figura importante, ma va a determinare, esattamente come nella pittura italiana, però a Novacella, l'intera impostazione spaziale. E questo fa di Michel Packer il genio che noi conosciamo, che alle volte è stato un po' sottovalutato, perché magari troppo vicino alla pittura italica, troppo vicino alla pittura tedesca. Quello che possiamo dire è che anche in questo altare Packer non è che adesso da qui in avanti vedrete sempre tecniche così, perché il bello di questo artista, che è un artista complesso perché interessante, ma assolutamente non difficile, cioè basta non seguire tutte le teorie scritte da persone che non hanno trovato i documenti e iniziano a parlare di teorie, però è complesso ma è avvincente, perché Michel Packer appunto realizza questi punti che vanno nella successiva, ci sarà una tecnica diversa, lui ragiona per adesso faccio così, dopo faccio così, cioè non è qualcuno che segue, non è matematico, tranne quando poi passerà da artista a imprenditore, che lascerà quindi in mano gli assistenti il tutto, allora lì è normale, è anche più anziano, ha meno voglia e quant'altro. Questa è l'ultima che vi faccio vedere, poi ve ne faccio vedere un'altra sulle attribuzioni. In questo caso siamo nell'altare di San Wolfango, 1481, opera di Michel e Frederick Packer, che abbiamo detto non essere fratelli. Chiaramente è inutile dire qui se realizzano prima lo spazio o prima le figure, perché chiaramente, vi ho detto, è il maestro che realizza lo spazio, poi la figura la realizzava Frederick Packer, a mio parere in maniera anche eccelsa, secondo alcuni critici in maniera negativa, tant'è che i due poi comunque hanno litigato. Allora, ce lo racconta Matteo nel Vangelo, sono importanti i testi religiosi quando si parla di un'opera d'arte, perché ci danno poi la soluzione sostanzialmente. Gesù caccia e cambia valute all'interno di un tempio ebraico. Certo, qui Packer prende la parte più violenta, perché non viene scritto che vengono frustati. Sappiamo che sul testo di Matteo dice che rovescia il tavolo, c'è una diaspora del denaro o quant'altro, ma non che il Cristo frusta o fustiga, cioè vengono allontanati, certo, allora magari la traduzione di allontanati è questo frustino, che viene in qualche maniera preso evidentemente da questo bue o cavallo sul fondo, il cane iconograficamente, che iconograficamente diciamo che è un cane, iconologicamente, quindi sul significato di questo cane, è la fedeltà. Mi sembra anche nei dipinti di qualche coppia del 1500 mettevano sempre il cane, perché dovevano in qualche maniera sottolineare la fedeltà e quant'altro. E quel cane è fedele a Gesù, infatti cosa sta facendo? Sta bloccando eventuali minacce dal lato destro. Ma lo spazio, allora, queste sono le figure che ha inserito Federico Packer, diciamo così, ma lo spazio l'ha fatto Michael Packer. In alto riconosciamo Matroneo, però il matroneo, dice la parola stessa, dovrebbe essere solo delle donne. Sappiamo anche il professor Lollini di Bologna diceva che dopo, quando non c'era più spazio, andavano su anche gli uomini sostanzialmente. Però allora dov'è l'inizio di questa chiesa? Questo sembra un atrio e qui sembra incominciare la navata, ammesso che poi doveva essere un tempio ebraico, ma queste sono cose che non andiamo a vedere. Un atrio, però con questa scalinata è un qualcosa che torna poco. In più abbiamo queste arcate, che poi non sappiamo bene come si conclude con questo pilastro, e un'ulteriore arcata sullo sfondo. Questo è un capriccio architettonico. E questo porta Michel Packer a ragionare, ad avere una volontà artistica simile a quella di un grande altro artista, di 300 anni più giovane, che è il Canaletto. Ora, c'entra nulla col Canaletto, però la volontà artistica di Packer di realizzare un'architettura inventata al puro scopo di meravigliare lo spettatore è la stessa cosa che farà Canaletto a Venezia e maggiormente quando andrà a Londra. Questo vuol dire avere in comune un modus operandi o comunque una volontà artistica con un artista che nascerà 300 anni dopo. Significa essere avanti, significa essere sicuramente un artista importante e, senza ombra di dubbio, un artista finora un po' troppo sottovalutato. Quindi, andando poi a ricostruire, quindi io credo sia un capriccio, ecco, perché non sappiamo dire con certezza se è una chiesa oppure no, perché ha inserito degli elementi che non ce lo fanno dire con certezza. Qui è molto semplice perché, vedete, si prolunga direttamente dalle scalinate e, non a caso, quel punto lì che andiamo a trovare è sul dorso di quel bue. È stessa cosa per i piedi di questo tavolo, per la pavimentazione, quest'asse qui è dove parte il matroneo, e quindi abbiamo il punto A. Torniamo a colori, abbiamo visto che il punto A è su questo bue. Faccio riflettere un attimo sulla figura del Cristo, che ha una curva quasi prassitelica, quindi prassitele è qualcosa che andiamo ancora indietro, però qui stiamo parlando di un artista che non ha problemi a citare modelli antichi, si pensi alla composizione spaziale ripresa dalla pittura pompeiana, sì. Quindi voglio dire, dovrebbe darci le spalle ancora una volta, però all'ultimo si piega il Cristo e si gira a tre quarti. Siccome era Packer che faceva la composizione, quello che vi ho detto prima, ma avete visto sicuramente, è un punto di fuga ribassato, non troppo ma è ribassato, leggermente decentrato perché è un po' più a destra, non è proprio al centro. Ma se il Cristo ci dava totalmente le spalle e avesse compiuto solo una piccola porzione di giro, no? Probabilmente quel punto A, che era il dorso del bue, sarebbe stato coperto dal Cristo. Ecco, evidentemente un'indicazione di Packer, Michael Packer, a Frederick Packer, che evidentemente aveva già incominciato a fare il Cristo, a dirgli spostalo, perché lo spettatore deve vedere l'arcata finale, perché nell'idea del capriccio architettonico che crea un'architettura per mostrare la mia abilità, non me la puoi coprire con il Cristo, stiamo parlando del Cristo, però comunque non me la puoi coprire, perché lo sto facendo. Questo ed altre 30 ricostruzioni sono all'interno di questo mio libro, e concludo solo con quest'opera che conoscerete tutti, penso è diventata una delle opere più famose di Packer, Suo Malgrado, perché fu attribuita dall'allora storico dell'arte Giorgio Bonsanti, oggi onorevole. È un'opera che proviene da Parigi, è il ritratto di Maria di Borgogna, che come voi tutti sapete nel 77 sposa Massimiliano I. Quest'opera Bonsanti la vede a Parigi, oggi si trova a New York, vede questi chiaroscuri, verdi, arancioni, e lui giustifica questo dicendo, beh, considerando quello che vi dicevo prima, considerando che può essere di Packer, perché c'è questo chiaroscuro verde che voi avete visto prima dei verdi, no? Ha dei verdi accesi Packer, soprattutto nel primo periodo. Questa è un'opera che secondo l'esame dendrocronologico, cioè l'esame del legno è una pala, può essere fatta rinvenire da 75 a 90. Calcolate che Maria di Borgogna muore nell'82. Quindi o è un'opera fatta con lei in vita, quindi Packer è andato a Bruges o a Vienna a fargli il ritratto negli anni 70, quindi in teoria proprio alla fine dell'altare di Gries qua, ma finito quell'altare lì lui incomincia l'altare di San Volfango, quindi non può, cioè è molto difficile, oppure 490, dove lui ha fatto quindi che cosa? Un ritratto dopo morto, cioè non... Da un punto di vista estetico, insomma, lo vedete da voi, non c'entra nulla. Il legno utilizzato è un legno di quercia che non veniva utilizzato qui in Tirolo, era un legno molto utilizzato a Bruges. Sappiamo che il Tirolo ancora oggi importa legna e quant'altro, però quel tipo di legno lì, il legno di quercia, non era utilizzato. In più non basta dire che in Tirolo non c'erano dei grandi artisti, quindi c'era solamente Packer, e se quest'opera proviene dal Tirolo, non è vero, proviene da Parigi tra l'altro, allora è sicuramente di Packer. Hanno fatto un po' di confusione, insomma, questa persona. Vi faccio vedere solamente due caratteristiche. Vedete, in Veneto, nel Veneto antico, nel 500 si parlava di pene lessa. Ora non so se pene lessa oggi voi lo riuscite a... è il modo di dipingere, sì, di pitturare, però i propri pittori parlavano di pene lessa, no? Ecco, dirò nel modo di pitturare. Il modo di pitturare è molto diagonale, è molto matematico e molto diagonale. Packer era uno scultore, era uno arcigno, uno forte, e andando a vedere i particolari delle pitture di Packer non trovate lo stesso modo di dipingere. È un modo di dipingere molto aggraziato, non che Packer non lo fosse, lo era per la sua composizione spaziale, non per i colori. Poi era uno scultore. E dall'altra parte vedete anche che questi pendagli hanno un chiaro scuro che non hanno le ombre colorate. Se io voglio dipingere un pendaglio, creo un'ombra colorata. Se io invece voglio dipingere un pendaglio quasi fosse un disegno, io creo queste linee diagonali, un po' come i fumetti italiani, che creano, che si fa con la china, no? Il colore. Quindi ho pensato, questo è sicuramente un pittore che disegna più che colora. E chi è che disegna più che colora, a partire dal 400, sono gli incisori. E quindi probabilmente io credo che questo sia un incisore fiammingo, anche perché non c'è alcuna possibilità di pensare a Packer come incisore, se Packer venne dimenticato dopo il 1498, e questo è il punto più triste per Packer rispetto a Dürer, fu proprio perché mentre Dürer fece una serie di disegni, poi anche iniziò a stamparli, Packer no, perché Packer lavora ancora su legno quando il resto del mondo lavora su tela, e in più lavora in zone, solo in tarda età, diciamo, inizia a lavorare a Salisburgo, era una sede arcivescovile, a Bolzano, che era importante, però sempre all'interno del suo mondo, non ha delle grandi committenze fuori. Io dico che Panofsky, ad esempio, che è il padre dell'iconologia, nel 27 scrive: in Germania, a parte Michael Packer, non esiste un solo quadro costruito con rigore, e credo che questo sia abbastanza giusto, ma d'altra parte è anche contestabile, perché come avete visto noi oggi non abbiamo visto tutte prospettive, abbiamo visto certe prospettive, quindi una modifica che lui fa. Qui vi ho inserito solamente il mio blog in onore a Michael Packer, che aggiorno settimanalmente. Qui ho alcune domande anche da Giappone, Cina, veramente paesi che non pensavo, che infatti con la Cina ho un po' di problemi perché mi mandano le cose scritte in Google Traduttore, ho qualche problema, anche dagli Stati Uniti, c'è stato un interessamento anche del giornalista e saggista Corrado Augias, che ho incontrato a Venezia, sì, che abbiamo parlato più che altro così, e da con l'Alte Pinacotec di Monaco, per cui ho fatto un piccolo documentario, l'ho fatto io e che lo dovrò al limite, sperando che venga. Questo è il mio canale YouTube, dove ho inserito tutti i video che ho fatto in merito alle mie conferenze, perché io dopo la laurea ho fatto diverse conferenze fin tanto che non ho deciso di autoprodurmi un libro con l'aiuto dei Feltrinelli e via, e lì, e quello lì è il canale, e vabbè, qui è dove potrete trovare il libro, insomma. Io vi ringrazio per l'attenzione. qualora foste interessati potete visitare questo sito qui e c'è un'email, potete rispondermi o se volete comprare il libro io l'ho messo a un sconto molto più basso rispetto a quello. Prego, prego. Grazie a voi. Grazie.